1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, ebbene sì, pronti a leggere i giornali, pronti a parlare di temi tra la politica e quant'altro e la lotta alla casta, la casta. Allora, avremo ospite Michele Emiliano, sindaco di Bari del Partito Democratico, insieme al deputato di Forza Italia Maurizio Bianconi alle 8:15. Oh, è una politica a doppia velocità, un leader forte, il PD, ma che deve scontare anche le polemiche, no? La scelta delle donne capolista alle europee. Emiliano, che è stato tra i polemici, e un uomo un po' meno forte a Forza Italia, Silvio Berlusconi, da ieri considerato affidabile, chissà se sarà affidato dunque ai servizi sociali dalla Procura di Milano. E poi avremo ospite Marco Cappato alle 8:45, perché vogliamo tirar fuori una vicenda che è un po' sotto traccia sui giornali. Si stanno condonando ancora, questa volta il Comune di Milano, mega multe per affissioni abusive durante la campagna elettorale per milioni di euro. Se le stanno forse condonando gli stessi partiti. E com'è sta storia? Lo vedremo. Intanto andiamo a leggere i giornali. È venerdì 11 aprile, ma la frase stupenda potrebbe essere anche solo "è venerdì". E allora i titoli, il Sole 24 Ore, bot, tassi ai minimi storici, questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda Berlusconi sul Corriere della Sera, Berlusconi ai servizi sociali, la procura dice sì alla difesa. Per Repubblica, Berlusconi si salva dai domiciliari, è evitata una guerra. Il Messaggero, Berlusconi sì ai servizi sociali. Per il Fatto Quotidiano, Silvio farà il badante ma sarà sempre in TV. Il Secolo XIX, Berlusconi in affidamento. E per il Giornale, vince il buonsenso. Mentre l'Unità mette in prima pagina "Formigoni bloccati 50 milioni. La Stampa, un'intervista al ministro del lavoro Poletti, un contratto per ridare lavoro ai cinquantenni. Mentre le questioni etiche, da qui tra l'altro voglio partire nella lettura dei giornali, chiudete anche la Camera, tanto fanno tutto i giudici. Questo è il titolo di Libero, il potere delle toghe, dall'eterologa ai matrimoni gay, alle rotte aeree, hanno sempre l'ultima parola. Mentre Avvenire la mette così, la realtà piegata, la sentenza, le interpretazioni sulla legge 40 e il caso del matrimonio gay, gravi forzature. Ecco, allora, la questione del matrimonio gay che a Grosseto è stato registrato da un giudice all'anagrafe è frutto di polemiche, non è escluso che lunedì ce ne occuperemo, anche perché c'è una guerra in procura. Il procuratore capo di Grosseto Verusio ha annunciato faremo ricorso contro la decisione di questo giudice. Intanto partiamo dalla storia. Oggi sul Corriere della Sera in prima pagina uno dei due protagonisti di questa vicenda, Stefano Bucci, che è adesso attualmente, quindi legittimamente, sposato anche in Italia con Giuseppe Chigiotti. Stefano Bucci è un giornalista del Corriere della Sera, racconta proprio sul Corriere: io e Giuseppe, una storia normale. Mi piace pensare che quella mia di Giuseppe sia prima di tutto questo, una storia normale. Capisco che per qualcuno non sia facile accettarlo, ma giuro che è proprio così da 27 anni, da quando a Firenze ci siamo incontrati per strada davanti al negozio di un comune amico antiquario. Racconta tutta la vicenda, i 27 anni di stabilità, di amicizia, degli amici, nessuno dei quali ha mai chiesto conto della nostra storia. Per loro siamo sempre stati Giuseppe e Stefano, o viceversa, dipende dalla confidenza, facendoci diventare parte di un universo fatto anche di matrimoni, di battesimi, di vacanze condivise, E come in tutte le storie tante cose ci dividono, io amo la TV e Giuseppe l'opera, io non so cucinare, Giuseppe spadella in continuazione, io amo il dolce, Giuseppe il salato. E anche il nostro reciproco lavoro continua a tenerci, per fortuna, distanti. Due mondi separati che nel 2012 Giuseppe mi ha chiesto a freddo di riunire con questo matrimonio, parola che metto tra virgolette per rispetto di chi non la pensa come me. Ho detto di sì subito, senza pensare, perché era giusto, come credo sia giusto, che ogni coppia, etero, gay o altro che sia, abbia il diritto di condividere il proprio destino. È stato normalmente bellissimo, dice, questo matrimonio. Certo, l'ordinanza di Grosseto sta sconvolgendo la nostra normalità, ne siamo felici, ma ora vorremmo davvero un po' di calma, c'è tempo per i ricorsi e noi siamo pronti a dare battaglia. Se penso però che qualche anno fa, dopo un incidente stradale, non mi han permesso di assistere Giuseppe perché non facevo parte della sua famiglia, quella calma e quella normalità sono disposto a perderla da subito. Così Stefano Bucci, uno dei due protagonisti di questo matrimonio, che è stato impugnato appunto dalla procura, cioè il procuratore capo Francesco Verusio, non ha esitato e impugnerà l'ordinanza del tribunale che ha imposto la trascrizione nei registri comunali del matrimonio tra Stefano e Giuseppe. Il PM dice: non capisco come il tribunale abbia potuto interpretare a suo modo una sentenza della Cassazione che invece è molto chiara e vieta in Italia la trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso. Al di là della polemica, nozze gay, sentenza impugnata, titola per esempio Avvenire a pagina 6, e La Repubblica, nozze gay, scontro tra magistrati, e il punto di cui parlano Libero e anche il Giornale in prima pagina con un articolo di un editoriale di Marcello Veneziani, è un po' una denuncia, una sorta di onnipotenza della giustizia. Libero appunto la mette così come titolo: chiudete anche la camera, tanto fanno tutti i giudici. E Marcello Veneziani firma un editoriale invece in prima pagina del Giornale il cui tenore più o meno è lo stesso: embrioni e nozze gay, ormai Dio indossa la toga. Scrive Veneziani: non dirò nulla sulla fecondazione eterologa, ma dopo i commenti in gran parte euforici sull'intervento della Corte Costituzionale restano due cose di ordine generale. La prima è che il legislatore, i rappresentanti del popolo sovrano, i medici, i sacerdoti e gli scienziati non contano nulla, possono solo proporre, ma disporre alla fine è il magistrato. È lui che detiene il monopolio assoluto in materia di vita e di morte, di leggi e valori, libertà e divieti. Il giudice è Dio in terra e in ultima istanza suprema, detentore della verità e del monopolio della forza. A lui solo è concesso il decisionismo negato agli altri poteri. E a me non piace vivere in un paese in cui tutto è relativo meno il potere dei giudici, tutto è opinabile salvo le scelte ideologiche della Corte. C'è la divisione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario, ma il potere giudiziario sovrasta gli altri due. Non contano le leggi del Parlamento, i costumi, le tradizioni dei popoli. Il giudice è l'unico assoluto in una società relativista. Gli altri, parlamentari, medici, preti, esperti, al più sono i suoi periti in tutti i sensi. E, insomma, questa è la polemica di Marcello Veneziani. L'Unità mette il titolo: nozze gay, fate presto una legge. Ora centinaia di coppie invocano un intervento governativo mentre la procura impugna la decisione del tribunale di Grosseto. Tra l'altro, a proposito di temi etici, oggi c'è un'altra questione che riemerge, se ne parlò in passato, la RU486, cioè la pillola abortiva per chi, diciamo, un rapporto e poi nel giro di, diciamo, di credo 48 ore vuole prendere questa pillola per scongiurare una possibile gravidanza. Il caso è un caso di cronaca nera perché il titolo a pagina 2 della Stampa è questo: Torino, donna muore dopo l'aborto con la pillola. È il primo caso registrato in Italia, come racconta Marco Accossato, una donna di 37 anni morta all'ospedale Martini di Torino subito dopo un'interruzione volontaria di gravidanza con la pillola RU486. Una tragedia che risale all'altra sera. La donna, madre di un altro bambino, aveva deciso per l'interruzione di gravidanza. Il 4 aprile le era stato somministrato questa sostanza che entro 48 ore massimo ferma la gestazione e subito dopo il suo cuore ha smesso di battere e ovviamente ora ci sarà ora i medici dicono non c'erano anomalie negli esami, ci sarà l'autopsia, insomma, e questo alimenterà nuove polemiche. Prima della pubblicità vi voglio dire di due casi giudiziari. Il primo riguarda Umberto Bossi, che verrà sottoposto a processo, come raccontano i giornali, lo fa in esteso Libero a pagina 11. Disse Terun a Napolitano, al capo dello Stato, in un comizio a Bergamo: mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica, Napolitano, nome, non sapevo fosse un Terun. Per questa offesa la Procura di Bergamo ha chiesto il rinvio a giudizio e ci sarà il processo. Vilipendio alla Repubblica con aggravante della discriminazione etnica. Questo il processo nei confronti di Umberto Bossi. Mentre questa vicenda, che attenzione, viene posta solo dalla Stampa, è una vicenda che riguarda Marcello Dell'Utri, che credo in settimana o comunque a giorni è atteso dal giudizio definitivo per una condanna che potrebbe aprirgli le porte del carcere, ma la Stampa dice attenzione, Marcello Dell'Utri è latitante, da alcuni giorni non si sa dove sia, pochi giorni dalla sentenza definitiva, racconta Riccardo Arena, pagina 11 della Stampa, il suo telefono squilla vuoto, lontano, come se fosse chissà dove, in effetti è chissà dove, un ordine di custodia cautelare è stato emesso contro di lui dalla terza sezione della Corte d'Appello di Palermo, dunque è stato richiesto l'arresto per Dell'Utri, ma non è stato eseguito perché gli agenti della squadra mobile di Milano non hanno trovato l'ex delfino di Silvio Berlusconi. Troppo tardi, l'ex senatore del PDL condannato a 7 anni per mafia potrebbe essere all'estero, forse in Guinea-Bissau, forse in Libano, forse nella Repubblica Dominicana. In quest'ultimo paese si era già rifugiato 2 anni fa, quando sparì in circostanze analoghe nei giorni in cui la Cassazione doveva decidere la sua sorte. Ora, un'intercettazione ambientale del novembre scorso orienta più verso la Guinea-Bissau o verso il Libano. Sta di fatto che è stato richiesto l'arresto, ma Dell'Utri non è stato trovato dagli agenti della squadra mobile. È latitante? Punto di domanda. La pubblicità. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola chiama Alessandro Milan, il buono, il brutto e il cattivo dell'informazione. Ma vabbè, ma mandiamoli all'Oscar, mandiamoli a Hollywood, che magari vinciamo qualche premio per le sigle più geniali. Cari ascoltatori, potete mandarmi anche la sigla se pensate che sia il pirla dell'informazione, ditemelo pure, che problema c'è? Qua mandiamo in onda tutto in estrema libertà. Allora, che dire, la vicenda politica di ieri che trova più spazio oggi sui giornali è la questione di Berlusconi. Berlusconi, ieri c'è stata l'udienza alle 17, come raccontano tutti i giornali in maniera molto dettagliata, con le transenne, i carabinieri. A un certo punto il Corriere della Sera scrive a pagina 2, non si capisce neanche perché, visto che Berlusconi non si deve presentare, cioè tutto è finito attorno alle 14 per quelli che precedevano Berlusconi, poi si sono presi 3 ore per isolare il suo caso alle 17, per tutti gli altri condannati sedute lampo di 6-10 minuti, 58 casi anonimi, poi il caso Berlusconi. Ok, della procura Berlusconi, questo è il titolo a pagina 5 del Sole, cioè il procuratore generale si è detto favorevole all'affidamento ai servizi sociali. Attenzione, non vuol dire che ci sono i servizi sociali. In un lasso di tempo che va tra 5 giorni ai 15 giorni, secondo il Corriere il giorno più presumibile è martedì in cui si deciderà, i giudici devono decidere. Può darsi anche che nonostante la Procura Generale dica sì, va bene, va dai servizi sociali, i giudici possono dire no, scegliamo gli arresti domiciliari motivando questa decisione. Comunque è presumibile a questo punto, visto che anche la pubblica accusa chiede e si dice favorevole ai servizi sociali, che servizi sociali saranno. I dettagli comunque li trovate sui giornali, abbondano i retroscena secondo e in retroscena danno un umore di Silvio Berlusconi, alcuni dicono abbastanza sereno, compatibilmente col fatto che non accetta certamente la situazione. Se mi lasceranno parlare vi prometto la rimonta, questo ha detto per esempio secondo La Stampa nell'articolo di Amedeo La Mattina pagina 9 ai suoi. Oppure l'attesa ad Arcore coi figli e la Pascale, ora serve cautela, per il giornale con Francesco Kramer. Ecco, il retroscena è questo: restiamo fiduciosi che il tribunale saprà giudicare tenendo ben presente la statura umana e politica della persona che ha di fronte, la responsabilità verso i milioni di moderati che si riconoscono in Berlusconi, fiduciosi ma non certamente ancora convinti del tutto. Mentre sereno è dato dal Corriere della Sera, da Paola Di Caro, in questo retroscena. Libero invece, ecco, è l'unico giornale che dice di un Berlusconi infuriato. Salvatore Dama a pagina 3: più che ingiustizia, questa è una bestialità, davvero non ho nulla di cui gioire. Malgrado perfino la procura voglia evitargli gli arresti domiciliari, Berlusconi non riesce a sorridere della notizia. Ma vi rendete conto, un uomo con la mia storia, uno che ha solo fatto del bene a questo paese, costretto a essere rieducato? Un'ingiustizia mai vista, di più, una bestialità. Ma staremo a vedere che succederà. Anche altre vicende giudiziarie che riguardano un altro esponente del centrodestra, prima berlusconiano, ora del nuovo centrodestra, vale a dire Roberto Formigoni. Oggi senatore, ex presidente della Regione Lombardia per 5 mandati, raccontano Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, ma trovate articoli ovunque, villa e soldi sequestrati a Formigoni, un tesoretto a sua disposizione secondo la procura, sono stati sigillati beni fino a un valore di 49 milioni di euro, tra questi conti correnti, 3 auto, una villa in Sardegna. E per la verità Formigoni fa un'intervista proprio al Corriere della Sera, intervistato da Andrea Senesi, dice, parlando di sé in terza persona: vogliono far passare Roberto Formigoni per un riccone sfondato dopo aver tentato di distruggerlo politicamente. Ha messo sotto sequestro un conto con 18 euro di attivo e un altro in rosso di 75.000. Spero almeno che il debito in banca sia da considerarsi così estinto. Dei conti correnti ho già detto, la villa in Sardegna invece non è intestata a me, le 3 macchine sono una Panda, una Multipla e una Mito, non fuori serie come si vede. Poi una piccola casa a Sanremo ereditata dai miei genitori e 2 appartamenti a Lecco abitati dai miei fratelli. Le sembra un paperone? Violenza diffamatoria, ecco cos'è, dopo avermi colpito politicamente ora tentano di farlo sul piano personale. È una damnatio memoriae a Formigoni ancora in vita. Poi si riparla delle solite famigerate vacanze, le vacanze che con gli scontrini che lei non ha mai esibito. Erano vacanze tra amici, dice Formigoni, e tra amici non esistono ricevute, fatture, contabilità burocratica. C'era chi offriva i biglietti da viaggio e chi si sdebitava comprando qualcosa durante il soggiorno. Alla fine il saldo era comunque in pareggio. Se poi Daccò e Simone hanno commesso errori, ne risponderanno e pagheranno le eventuali conseguenze penali. Vabbè, Formigoni, questo il sequestro, beni per 49 milioni e la villa in Sardegna. C'è anche il PD invece, che è un po' in fibrillazione, lo dico io come termine, ma vabbè, il PD è in fibrillazione perché la nomina delle donne capilista ha creato scompiglio, perché per esempio Michele Emiliano, primo cittadino di Bari che doveva essere candidato alle europee, si è ritirato dalla candidatura e tra l'altro sarà nostro ospite alle 8:15. L'accusa è di Grillo: ma che donne, sono veline quelle che sono state messe lì. Un'accusa alla quale risponde Alessia Mosca, una dei capilista che è stata messa da Renzi. Sono offese sessiste, intervistata da Ninni Andriolo a pagina 5 dell'Unità, dice: sono doppiamente sgradevoli gli insulti di Grillo. Sgradevoli perché vorrei ricordare che Molti mi chiedono, dice Alessia Mosca, ma come lasci Roma per Strasburgo? Ma vorrei ricordare che il 70% della legislazione nazionale è di derivazione europea. Certo, è stata una sorpresa, non mi aspettavo di essere capolista, ma gli insulti di Grillo hanno un duplice effetto di cui mi vergogno. Viene fuori da un lato l'aspetto più gretto della nostra cultura, quello che ricade nell'offesa sessista, che mi fa orrore. Pensiamo di essere un paese moderno e poi emergono i rigurgiti di vecchie abitudini. Dall'altro lato fa tristezza il fatto che un leader politico ricorra a strumenti come questi per celare un'evidente carenza di argomenti. Insomma, si difende così Alessia Mosca dall'accusa di essere una velina, come dice Beppe Grillo. Ma a proposito di veline, voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Devo dire che se siamo arrivati con me alle veline, insomma, vuol dire che le veline sono, hanno perso qualcosa sul lato estetico. Qualche punticino, sì, qualche punto l'hanno perso. Per fortuna alla radio non si vede e quindi vabbè. Possiamo anche giocare su questo aspetto incognito. Senti, vuoi sapere allora quanto potrebbe derivarti dal bonus IRPEF? Ah, ottimo, sei ottimo, curioso? Curiosissimo, sei curioso di sapere quanto potrei avere da parte? Beh, allora guarda, Marco Mobile e Giovanni Parenti hanno fatto un'elaborazione, naturalmente si tratta di stime per il momento perché abbiamo lavorato, hanno lavorato su delle anticipazioni, però c'è una elaborazione puntuale a seconda del reddito annuo. Uno può calcolare quanto gli verrà all'anno di questo bonus IRPEF, di questa extra detrazione. È tutto questo a pagina 6 del Sole 24 Ore di oggi. E questa poi, sempre a proposito di buone notizie, oggi mi sono svegliato abbastanza positivo, diciamo. Oh, è venerdì d'altronde. È venerdì, quindi cerchiamo anche dei motivi di ottimismo. Il ministro Giannini ci annuncia che sono pronti a varare un nuovo credito d'imposta per l'assunzione di ricercatori, lo dice Eugenio Bruno, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore. Ci sarebbero 600 milioni complessivamente in palio, e questo pure sulle pagine del Sole 24 Ore. Poi, guarda, c'è un rimbalzino alla produzione industriale, sai che lunedì parlavamo di questi segnalini di ripresa, germogli di ripresa, c'è un rimbalzino alla produzione industriale, lievi segni di ripresa, scrive Luca Orlando, imprese e territori, poi tutti i particolari in cronaca, come si diceva una volta. E che altro ti posso dire? Non lo so. Partiamo alle cattive notizie? No, ma qui c'è un elenco sterminato, insomma, scegliere no, una. Per esempio perché sulla TASI ancora non si capisce bene come dovremo pagare, sai, questa tassa sui servizi indivisibili, questa roba comunale. Sì, sì. Comunque, insomma, con salato dovremo pagare. Questo. Ecco, con dedizione tu affronta il resoconto che ne fa Gianni Trovati, anche con l'assistenza dei nostri esperti, di Luigi Lovecchio in particolare, insomma, così cerchi di farti un'idea di quanto potrebbe essere l'esborso e soprattutto di come funzionerà, perché questo è ancora abbastanza oscuro. E, vabbè, Davide, un'altra buona notizia, il Premine, il che si pagano a maggio, c'è uno sconto cospicuo, era stato annunciato, decisione ancora del governo precedente, e qui tutti i particolari non in cronaca ma su norme. E vabbè, insomma, oggi le prime notizie che superano le negative, bene, bene, d'altronde è venerdì, e chissà, e se riparte il campionato anche per voi, eh? Non ne sai. Volevo parlarti invece di turismo, che è l'ultima buona notizia che voglio darti, perché si attende una ripresa per Pasqua, quindi ecco, una ripresa dei viaggi domestici, cioè pare che ci sia un po' tornata la voglia di viaggiare. Questo lo dico perché, essendo oramai più o meno nella finale di questa nostra quotidiana telefonata, so che devo parlarti. Forse. Devo parlarti di una certa cosa. Guarda che ieri qui a Milano, tangenziale ovest, 35 chilometri di coda, quindi solo? Solo, sì, questo è lunga, riferiamo 34 chilometri la tangenziale, ma ce n'erano 35. Lo riferiamo sul Sole 24 Ore, domandandoci un po' anche, ma poi per l'Expo siamo a posto, sì, cioè, a postissimo, siamo a postissimo, tranquillissimi, ecco. Tranquillissimi. Insomma, c'è una questione, è il mio momento, è il tuo momento. Allora, c'è una questione di traffico. Alessandro Milan. Ma no, forse è meglio Alessandro Juve. Voglio bene anche a te, caro fratello dell'umanità. Va bene, mi avete tolto tutta la gioia del venerdì, insomma, però... Ah, la Juve in semifinale di Europa League, grande coppa, grandissima coppa, ah, coppa del nonno più o meno, bravi, bravi, bravi, complimenti. Allora, sono un po' nervoso, si vede. Allora, continuiamo la lettura dei giornali per quel che riguarda gli sprechi. Il Fatto Quotidiano ha preso sul serio, insomma, questa vicenda, e tu cosa taglieresti? E oggi suggerisce un'altra cosa a Renzi, lo fa a pagina 5 con Silvia Donghia, quei 15 onorevoli milioni per difendere la casta. Cos'è questa vicenda? La vicenda è banalmente detta: ci sono 630 deputati e sapete quanti tra poliziotti e carabinieri ci sono all'interno della Camera in servizio? 400, non dico uno ogni onorevole, ma più o meno. Tanto costano 15 milioni i 400 tra poliziotti e carabinieri in servizio a Montecitorio per proteggere la Camera dei Deputati, perché prendono l'indennità di palazzo. Pensate che bello, la fila tra carabinieri e poliziotti per cercare di mettersi lì in quel servizio per prendere l'indennità di palazzo. Va bene, parliamo di un'altra cosa più seria, la questione del lavoro. Oggi il ministro al lavoro Giuliano Poletti fa un'intervista alla Stampa, intervistato da Luca Fornovo, a pagina 6, dice: dopo i giovani ora studiamo un contratto per gli over 50, una categoria molto in difficoltà perché è considerata troppo fuori mercato. Ci sono troppe persone che hanno più di 50 anni e sono state espulse dal mondo del lavoro, inizia così il ragionamento di Poletti. Non riescono più a rientrare, sta diventando una vera emergenza sociale. Vorrei al più presto introdurre un contratto per il reinserimento dei lavoratori over 50. Il progetto certo va ancora studiato bene, penso a un contratto di reinserimento per chi è ancora lontano dalla pensione e a qualche tipo di scivolo per chi invece è ormai prossimo a ritirarsi. Se avessi i soldi lo farei subito, confessa Poletti, ma prima dobbiamo trovare le risorse finanziarie per eventuali agevolazioni e tutto il resto. Ma è una cosa che questo governo vuole fare, e anche presto. Dunque, rimane solo un atto di fede, cari cinquantenni che purtroppo siete stati in questo momento estromessi al mondo del lavoro. Il governo, dice Poletti, vuole fare, e presto, ma i soldi non ci sono. Un contratto di reinserimento per i cinquantenni. Oh, sono anche giorni nei quali si decideranno, tra domenica forse, lunedì, le nomine dei manager delle grandi società a partecipazione pubblica, Eni, Enel, Finmeccanica, anche la RAI, anche se su questo il direttore generale Gubitosi pare rimanga al suo posto, nonostante le voci che lo danno per sostituito, mentre invece certamente Eni. E su questo è una partita come sempre molto complicata, anche strategica. Il Corriere della Sera racconta, con Roberto Bagnoli e Marco Galluzzo, che Matteo Renzi ne ha parlato sicuramente con Gianni Letta. Gianni Letta e Matteo Renzi di sicuro ne hanno parlato la scorsa settimana. Il confronto costruttivo per le nomine che il ministro Padoan ha detto dovranno essere competenti in alcuni casi nuove. Lunedì potrebbe essere il giorno della verità, non solo per i super manager di Eni, Enel, Finmeccanica e Poste, ma anche per i 38 consigli di amministrazione, a cui andrebbero aggiunti 29 solo nella galassia delle Poste. Per Repubblica, Renzi punta a alle donne anche in questo caso, dunque generando magari insomma anche qui le polemiche che sono state per le scelte dei capi lista donne. Punto di domanda: presidenti donna via Scaroni e Conti dall'Eni e l'Enel, questo assicura Repubblica. Renzi, che ieri tra l'altro ha detto: i manager scontenti se nel pubblico vadano pure nel privato se vogliono, e vediamo se li prendono. Allora, Repubblica con Alberto D'Argenio e Andrea Greco a pagina 11. Tra le indiscrezioni dice che all'Enel come capo azienda viene dato in pole position Francesco Starace, attuale amministratore delegato di Enel Green Power, la cui nomina al posto dell'uscente Fulvio Conti sarebbe la soluzione più gradita all'interno dell'azienda. Per Finmeccanica sembra allontanarsi il trasferimento di Mauro Moretti dalle Ferrovie, mentre il più accreditato per ricoprire il ruolo di amministratore delegato è Giuseppe Giordo di Alenia. Alle poste dovrebbe andare Francesco Caio, il mister agenda digitale nominato dal governo Letta. Queste sono le idee che vengono fatte trapelare da Repubblica. Va bene, siamo in conclusione, siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi vince il Corriere con Maria Luisa Agnese. Io quando leggo questi articoli, sapete, l'argomento è sensibile, già il titolo mi fa innervosire. Svegliarsi presto o andare a letto tardi? Col punto di domanda, una pagina su questo. Le telefonate all'alba di Agnelli. Obama invece che fa le riunioni alle 23. Il Papa che si sveglia alle 4:45. Ma non era alle 4? Hai capito? Un po' debosciato anche lui gli ultimi tempi. 45 minuti più tardi. Ma prega già dalle 5. Meglio i mattinieri o meglio i tiratardi? Chicco Testa che fa sapere che si messaggia con Matteo Renzi alle 5 e quello gli risponde alle 5:02. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega, cari italiani? Ah! Ah! Il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.